intenti di inciampare? Sì, sì. Ok. Che strano. Posso sentirlo che fa cocco, cocco. Ciao. No, iscra. Ecco, andiamo là vicino all'acqua. Ok. Il loro ambiente naturale è l'acqua. Non gli hai mai dato dei nomi? A loro? Sì. Quella era una che... Allora, vi racconto. Noi avevamo due oche bianche. Sì. E senza nomi erano. Poi i nostri muratori avevano... qui a Cagliano, verso Volano, avevano quattro oche bianche, e no, due oche bianche, e hanno dovuto darle a noi perché non ne potevamo più tenere. E una si chiamava Flora e una si chiamava Frida. Di queste. Nel febbraio di 3 anni fa, proprio febbraio di 3 anni fa, sono venute due volpi. Ah. Sono entrate da lassù, si pensa, e in una notte hanno scannato 8 galline e 2 oche. La notte successiva sono tornate e hanno scannato le altre 2 oche. E per cui sono rimaste l'oca cignata e l'oca bianca e basta. Le altre sono state distrutte praticamente dalla bomba. Dopo, quelle anatre, vedete quelle anatre col collo lungo? Vedete? Sì. Ecco, erano 4. Mio nipote fa il commercialista, una sua cliente ha una specie di agritour, si doveva far operare all'anca e allora ha chiesto, è venuta giù a vedere l'ambiente, se andava bene, visto che c'era l'acqua, il prato, così, ne ha portate 4. 4 mi pare, non mi ricordo bene. Beh, insomma, lì hanno loro... si sono accoppiate ed hanno fatto tanti pulcini, ma vicino da lì scende giù una cornacchia e quando vede girare questi piccoli pulcini se li porta via. Poi le anatroccole, vedete, si chiamano le anatre femmine e le anatre maschi si chiamano germani, anche loro hanno fatto i pulcini e anche quelli parecchi se li sono portati via. Le cornacchie. Sentiamo una domanda qui. Quanto tempo ci vuole per far crescere una gallina? La gallina dura 7-8 anni. Noi le prendiamo già grandicelle a Vigolo Vattaro. E 7-8 anni. Poi la trovi lì stecchita per terra e se n'è andata. Ci puoi raccontare la storia di questo terreno? Questo non è nostro. Ma allora, tanti anni fa c'era un dottore che abitava in quella casa nel suo a vederla. Beh, intanto se puoi raccontarci qua. C'è una casa lassù e questo dottore aveva la casa grande e la campagna. Quando lui è morto ha lasciato la casa e la campagna al parroco del paese. E l'ha sempre tenuta, ci sono non so quanti, è locata... a 3 personaggi mi pare, 3-4, Michelotti, il Prosser e il Macedoni mi pare. E poi è stata venduta a un signore della Svizzera, la casa e anche la campagna. Noi abbiamo il diritto di coltivarla e di passare e di tenere gli animali. E chi ha iniziato in famiglia? Mio papà, penso, perché mio padre... aveva le galline e anche i conigli e poi avevano anche il maialino, facevano le lucaniche con quello. Noi eravamo proprietari solo di questo orto qua. Questo non era nostro. E che storia ha la tua famiglia rispetto a questo terreno qua e alla casa? Allora, la nostra casa è stata costruita ai tempi del Concilio di Trento ed erano le stalle dei cavalli, insomma, degli animali. Mentre dietro c'è la casa dei Rosi, Allora, dopo i miei avevano una parte di casa e le altre parti erano gli altri salissoni. Quando c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, la nostra casa è stata completamente abbattuta, praticamente il tetto era in cucina, perché qui c'era la filanda, la ferrovia e i ponti. Allora gli aerei hanno distrutto tutto. Poi piano piano è stata ricostruita, molto piano piano. Prima nel 60 abbiamo alzato, poi abbiamo comprato 3 quarti di un'altra casa, della casa dei vicini, e adesso è casa normale, insomma. Sentiamo una domanda qui. Cos'è che piace più mangiare alle galline? Allora, noi la mattina riportiamo il pane ammollato nell'acqua con la crusca e durante il giorno o la mattina successiva tutti gli avanzi della cucina. Vedete, ci sono bucce d'arancia, ci sono bucce di banana, mentre i gusci delle uova e i fondi del caffè li mettiamo in quella specie di pozzo là e dopo quando si fa l'orto li tiriamo su e li mettiamo nel terriccio. Dimmi. Quali emozioni si provano ad avere degli animali così? È bello venire in campagna a vederli. È proprio bello. Si fanno toccare No, perché da sono un po' te? selvatici. Noi ne avevamo raccolto uno che era un po' disabile, diciamo. L'abbiamo portato in casa, non stava sulle gambette, aveva il collo che pendeva, però dopo un po' è morto. Perché la mamma, quando sono così, li abbandona proprio. Non li cura. C'è qualche domanda? Allora ti faccio io una domanda, Pina. Cosa ti ricordi quando avevi la loro età riguardo all'orto e coltivare? All'orto mi ricordo poco, ma lì c'era l'acqua che correva molto pulita. Mia mamma lavava i panni lì alla fontana, lì, in quella zona lì, e noi ci lavavano i capelli e poi si stendevano i panni lì sopra. C'erano i fili, si stendevano i panni lì. Non mi ricordo il suo particolare del lavaggio della testa nell'acqua fresca. Era molto più grande la roggia di Sì, adesso. era aperta, pulita. Sapete che a Cagliano, ne abbiamo parlato l'anno scorso, scorrono delle rogge. Questa è una delle rogge che serviva sia per scopi, diciamo, industriali che per scopi agricoli, oppure per L'irrigazione. pulizie o per pulizia Lavavano i personale. panni una volta, sì. Coltivare l'orto cosa ci dà? Cosa ci fornisce delle emozioni, degli stati d'animo? Chi è che diceva questo? Io avevo detto che era bello dopo prendersi cura dell'orto e dopo mangiare quello che hai coltivato. Quindi avevamo definito una parola che era soddisfazione, vero? Poi altre parole che avevamo legato a questa esperienza. Stupore. Esiste lo Ma stupore certo che nell'orto? esiste. Per esempio io adesso non sto tanto bene, ho una sorella da curare. Però io qui, venivo qui, in questa fila qui, mi piantavo un paletto qua, uno laggiù col filo tirato e mi piantavo i pomodori. Passava l'agostino, venne, Pina, te vai storta. Di là piantavo i peperoni. Poi le fragole, che non mi venivano quasi mai, vabbè, le zucchine, piantavo tutto. Era stupendo vedere e poter raccogliere sia i pomodori che la verdura, mangiarli, veramente. Poi una cosa che è anche di vostra tradizione di famiglia, le rose, Le no? Chi rose, era l'appassionato di rose? mio papà, Il papà era. ci sono dei rosai ancora che regalava agli anniversari a mia mamma.